Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. We want to keep the schools open. That's going to happen. I'm going to try and keep the all parts of the economy open as far as we possibly can. I don't think anybody wants to go into a second lockdown, but clearly when you look at what is happening, you've got to wonder whether we need to go further than the rule of six that we brought in on Monday. E insomma, l'avete riconosciuto probabilmente, era il primo ministro britannico Boris Johnson. Buona serata da Valentina Furlanetto, dalla redazione di GR24. Roberta Giordano torna lunedì. Per questa sera ci sono io, ma chiaramente andiamo alle notizie. Quello che ha detto il primo ministro britannico è che l'idea, la prospettiva per il governo inglese è quella di tenere aperte le scuole, non ci sarà un vero e proprio lockdown, ma guardiamo cosa sta succedendo. Ha detto: dobbiamo chiederci se dobbiamo andare oltre la regola del 6 che abbiamo introdotto. Questa regola vuole che siano vietati i raduni di oltre 6 persone sia all'aperto che al chiuso in Gran Bretagna. Poco fa Johnson ha parlato nuovamente, ha detto che una seconda ondata di contagio è inevitabile. Ci collegheremo con Londra per capire cosa sta succedendo, parleremo anche del voto in Italia domenica e lunedì. Chi rischia di più fra i leader politici? Ma è stata anche una settimana particolare, quella che si è chiusa, una settimana attesa da mesi per gli studenti, le famiglie, i docenti, la prima settimana di scuola dopo il lockdown. Vedremo com'è andata con il presidente dell'associazione Presidi. Ed è anche i giorni della ripartenza del campionato di calcio, con la fuga in avanti del presidente della regione Emilia-Romagna che riapre gli stadi. Infine il cinema con il reportage della nostra Marta Cagnola, ma sentiamo le principali notizie della giornata. Covid, contagi in crescita, meno tamponi, 10 vittime, 4.000 casi in Gran Bretagna, si va verso singole chiusure. Regionali e referendum, chiusura della campagna elettorale. Da mezzanotte il silenzio, si vota domenica e lunedì fino alle 15. Lavoro, oltre 1 milione di contratti a tempo in meno in un anno, colpito il turismo e i lavori stagionali. Tennis avanti a Roma, Berrettini, Djokovic, calcio domani al via la Serie A, in Emilia-Romagna stadi aperti a 1.000 persone. In primo piano i numeri delle ultime 24 ore del Covid nel nostro paese, contagi in aumento. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità c'è un lento ma progressivo peggioramento. Allora facciamo il punto. L'ultimo bollettino Covid parla di un'impennata di casi, 1907, oltre 300 in più dei precedenti, a fronte di circa 2.000 tamponi in meno. Ancora 10 le vittime, la Lombardia ne ha subite 2, ma in regione rallentano i contagi, che sono 224, 81 dei quali nel milanese. Seguono a ruota la Campania, con 208, e il Lazio, con 193 nuovi positivi, 108 dei quali a Roma. Il numero di contagi in Italia è in aumento per la settima settimana consecutiva, segnala Gianni Rezza, capo del Dipartimento Prevenzione del Ministero della Salute, avvertendo che l'età media, circa 41 anni, si sta alzando, segno che c'è trasmissione intrafamiliare. Questo spiega, aggiunge Rezza, la lenta ma graduale crescita delle ospedalizzazioni. Queste ultime, rispetto alla seconda metà di agosto, sono aumentate in media a livello nazionale del 3%, dell'1,5% in terapia intensiva. Quanto ai focolai, sono quasi 2.400 in Italia, di cui quasi 700 nuovi. Sul fronte vaccini, la Commissione europea ha firmato un contratto analogo a quello già siglato con AstraZeneca con le multinazionali farmaceutiche Sanofi e GSK. L'accordo permetterà agli Stati membri di acquistare fino a 300 milioni di dosi del vaccino che la casa farmaceutica francese e il partner britannico stanno sviluppando insieme. La Commissione continua intanto i colloqui per formalizzare accordi con altre 4 compagnie: Johnson & Johnson, CureVac, Moderna e BioNTech. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Lo spettro di un lockdown nazionale bis torna ad allungarsi, almeno come minaccia, quindi sul Regno Unito, alle prese come molti altri paesi europei e non, con un rimbalzo allarmante di contagi da coronavirus, con la Francia che supera i 13.000 nuovi casi e Madrid costretta a richiudere gran parte della città, mentre a livello mondiale i contagi hanno ormai superato quota 30 milioni. Di fronte alla crescita dei casi nel Regno Unito, il governo Tory di Boris Johnson, come diceva, non si vuol far trovare esitante questa volta o in ritardo. Per ora lo strumento scelto è quello di un rafforzamento parziale localizzato delle restrizioni, ma ci collegheremo tra poco con Londra per capirne di più. In Italia preoccupa anche la riapertura delle scuole, dove ci sono problemi endemici che si vanno a sommare alla questione coronavirus. Mancano ad esempio i banchi in alcune scuole, ma scoppia anche un altro caso che con il Covid, con i banchi, con l'assenza dei docenti non ha nulla a che vedere. Sentiamo. Banchi di Arcuri che non arrivano, studenti che devono tenere libri e quaderni sulle ginocchia e gambe troppo in evidenza. Almeno così la pensa la vicepreside del liceo Socrate di Roma, che invita alcune ragazze a vestirsi in modo meno provocante, perché a qualche professore, compagno di sesso maschile, potrebbe cadere l'occhio. Ma loro, le studentesse, non ci stanno e per protesta invitano tutte ad andare a scuola in minigonna. Non è colpa nostra se cade l'occhio, scrivono su un cartello le ragazze del collettivo Ribalta Femminista. Il preside Carlo Firmani avvierà verifiche sulle parole della vicepreside, perché le opinioni personali, dice, vanno tutte bene, ma se si passa alla censura a scuola è un problema. Anche il Ministero dell'Istruzione vuole vederci chiaro. Ovvio che a scuola bisogna avere un abbigliamento decoroso, in segno di rispetto verso l'istituzione e verso se stessi, commenta il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, Antonello Giannelli, secondo cui però non è condivisibile che si faccia riferimento a un ipotetico e deprecabile voyeurismo dei docenti uomini. Studenti a scuola senza banchi e il problema sembrano essere le minigonne, protestano sconfortati i genitori del liceo. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La politica ora, campagna elettorale per regionali e referendum alle battute finali. Dalla mezzanotte scatterà il silenzio elettorale. Poi domenica alle 7 l'apertura delle urne. Si vota fino a lunedì alle 15. Ultime ore di campagna elettorale, ultimi appelli al voto. Con la maggioranza che compatta assicura non ci saranno ripercussioni qualunque sia l'esito della consultazione, anche perché bisogna lavorare insieme per sfruttare gli investimenti europei. Fino a che ci sono cose da fare si va avanti, dice dal PD Zingaretti. Se il governo si ferma, la bici cade. La maggioranza resta solida, dice dal canto suo il capo politico 5 Stelle Vito Crimi. Non si può ad ogni elezione, locale o amministrativa, fare il tagliando al governo. Anche per Liberi Uguali e Italia Viva non ci saranno riflessi dal voto, ma intanto a creare tensioni Alessandro Di Battista in piazza stasera a Bari, iniziativa che viene letta dal PD soprattutto come una mossa in funzione anti-Emiliano, mentre il centrodestra, che si presenta unito in tutte le regioni, punta a espugnare in particolare la Toscana. Stasera comizio finale a Firenze di Salvini, Tajani e Meloni, con la leader di Fratelli d'Italia pronta a chiedere il voto in caso di vittoria del no. Sul referendum invece posizioni più sfumate: Fratelli d'Italia e Lega per il sì, ma con una certa tolleranza al dissenso interno; Forza Italia per la libertà di voto. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Parliamo ora di occupazione, del mondo del lavoro. Il settore privato perde in un anno oltre 1 milione di rapporti a tempo determinato. Il mondo del lavoro sconta l'emergenza Covid. Nel secondo trimestre dell'anno i contratti di lavoro a tempo determinato hanno registrato un forte calo, oltre 1 milione in meno nel settore privato, certifica la nota congiunta di Istat, Ministero del Lavoro, INPS, INAIL e ANPAL. Nei mesi del lockdown a soffrire sono stati soprattutto i contratti di breve e brevissima durata, alberghi e ristorazione tra i settori più colpiti. L'industria intanto lancia segnali di ripresa. A luglio, secondo l'Istat, il fatturato è cresciuto dell'8,1% rispetto a giugno, ma il divario con i livelli pre-Covid resta ancora ampio, registra meno 7,7% su febbraio. La crescita complessiva del fatturato negli ultimi tre mesi è dell'11,1% rispetto al trimestre precedente. Aumentano anche gli ordinativi, cresciuti a luglio del 3,7%. A luglio il fatturato è aumentato sia sul mercato interno sia su quello estero, mentre gli ordinativi registrano una crescita soprattutto grazie alle commesse in arrivo dall'estero. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Sale la tensione sull'accordo sui riders siglato nei giorni scorsi tra Asso Delivery e UGL. Ci saranno scioperi e vertenze sindacali se non verrà rivisto, minacciano CGL, CISL e UIL, che intanto hanno chiesto al ministro del lavoro Catalfo di convocare un tavolo presso il ministero. Rilievi e polemiche. Dopo la firma del primo contratto collettivo in tutela dei riders tra Asso Delivery, l'associazione che rappresenta l'industria italiana del food delivery, a cui aderiscono Deliveroo, Glovo, Just Eat, Social Food e Uber Eats, col sindacato UGL. Il ministro del lavoro Nunzia Catalfo ha inviato ad Asso Delivery una serie di rilievi di legittimità sul contratto firmato con la sola UGL e, nonostante l'intesa su un compenso minimo, l'introduzione di una copertura assicurativa per il rider, vanno all'attacco dell'accordo le tre sigle sindacali CGL, CISL e UIL, denunciando la mancanza di ferie, malattia, maternità, tredicesima e di garanzia sul licenziamento, critiche nel metodo e nel merito. Danilo Morini di Filt CGL Nazionale. La tipologia di lavoro è lavoro dipendente. Considerando l'autonomo non ci sono nessuna delle tutele previste per il lavoro dipendente. La legge obbliga all'autonomo o a un contratto con le parti più rappresentative, quindi quel contratto è nullo. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. La cronaca, partiamo dall'omicidio di Willy Monteiro Duarte. La Guardia di Finanza chiede il sequestro dei beni delle famiglie del branco dopo le verifiche sul reddito di cittadinanza. Sequestro di beni per circa 27.000 euro, blocco dei conti correnti e di tutte le utilità a disposizione dei quattro componenti del branco accusati dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte. Questa la richiesta della Guardia di Finanza ai PM di Velletri dopo le verifiche sul reddito di cittadinanza, percepito in modo indebito dai nuclei familiari dei fratelli Gabriele e Marco Bianchi, di Francesco Belleggia e Mario Pincarelli. Secondo quanto accertato dagli inquirenti, le famiglie dei quattro accusati di omicidio volontario avrebbero percepito complessivamente 33.000 euro, omettendo di indicare una serie di dati dovuti nelle autocertificazioni. Una vita lussuosa, quella esibita sui social soprattutto dai fratelli Bianchi. Auto, vacanze, abiti e orologi. E il reddito era stato concesso nonostante i precedenti per rissa e spaccio. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il Dipartimento del Commercio ha reso operativo l'ordine del presidente americano Trump di vietare negli Stati Uniti le app cinesi WeChat e TikTok. A partire da domenica sera le app di TikTok e WeChat scompariranno dagli app store americani, mentre almeno fino al 12 novembre gli utenti che già le utilizzano sul proprio smartphone non dovrebbero avere limitazioni. TikTok, molto popolare fra i giovani che realizzano e condividono brevi video sullo smartphone, ha 100 milioni di utenti negli Stati Uniti, mentre WeChat, una specie di WhatsApp molto usata in Cina, con cui i cinesi comunicano, fanno shopping online e pagano, ha solo 19 milioni di utenti negli Stati Uniti, in maggior parte cinesi che vivono in America. Entrambe le app sono considerate dalla Casa Bianca una minaccia alla sicurezza nazionale per i dati che raccolgono e vengono passati, secondo Washington, al Partito Comunista Cinese per creare profili comportamentali sugli americani e in generale spiare la popolazione. Finora, evidentemente, le trattative di TikTok per creare una società americana partecipata da Oracle non hanno soddisfatto l'amministrazione americana. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In chiusura, qualche notizia di sport. Per il tennis, approdo ai quarti degli internazionali di Roma per Berrettini, che nel derby italiano ha superato Travaglia, fuori Musetti, e Sinner approda ai quarti anche Djokovic. E domani inizia il campionato di Serie A con una grande novità. Il pubblico torna allo stadio per le prime partite di Serie A per il Gran Premio di Formula 1 a Imola. Fino a 1.000 tifosi potranno assistere domenica 20 settembre alle partite della prima di campionato Parma-Napoli e al Tardini della città emiliana e al Sassuolo-Cagliari allo stadio Mapei di Reggio Emilia. Anche di questo parleremo più tardi, ma ci fermiamo per il traffico e subito dopo parliamo di politica. Se volete scriverci 349-238-6666. A tra poco. Logica, spazio, tempo. Module Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta... Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. La politica, con l'importante appuntamento elettorale, si è chiusa la campagna elettorale per le elezioni regionali in 7 regioni: Liguria, Marche, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta, Campania e Veneto e ovviamente l'ago della bilancia sarà la Toscana. Decisivo per gli equilibri politici anche l'esito del voto per il referendum che decide il taglio dei parlamentari. Ben trovata Barbara Fiammeri, buonasera. Buonasera. Barbara, allora, su cosa rischia di più innanzitutto il governo, sulle regionali o sul referendum? Ma mi verrebbe da risponderti che forse non rischia su nessuno dei due, nel senso che anche in un caso di una pesantissima sconfitta, forse il governo non rischia, ci sarebbero pesanti fibrillazioni, però in una situazione come questa pensiamo che siamo per entrare insomma in un periodo molto difficile, nel senso che sentiamo quello che sta accadendo sul Covid nei paesi accanto a noi, con tutta la vicenda del recovery fund che è insomma da discutere nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, cioè nella prossima settimana c'è un consiglio europeo straordinario, si parlerà della Brexit senza accordo, cioè ci sono tutta una serie di temi che pensare a una crisi di governo in questo momento insomma pare poco plausibile. Detto questo, è chiaro che una sconfitta alle regionali e ancora di più mi viene da dire, rispondendo così alla tua domanda, al referendum, cioè un'eventuale vittoria del no, sarebbe uno scossone significativo per il governo. Detto questo, mi sembra di poter dire che chi è più in pericolo, tra virgolette, in questo momento, più che Giuseppe Conte, io vedo Nicola Zingaretti, il segretario del PD. Lì sì, penso che un'eventuale sconfitta, in particolare in Toscana, sarebbe serale, nel senso che non potrebbe rimanere al suo posto a quel punto. Stiamo parlando di una regione che, come l'Emilia, è sempre stata governata dalla sinistra, insomma, dal dopoguerra in poi. In effetti Gianni, il candidato per la Toscana, dice: sul mio nome si gioca proprio il futuro, e chiede il voto disgiunto. Sì, chiede il voto disgiunto perché ci troviamo in una situazione in cui praticamente il Partito Democratico è sostanzialmente solo, nel senso che a differenza del centrodestra che ha trovato una forte unità della coalizione, il centrosinistra è sostanzialmente il Partito Democratico con alcuni partitini, addirittura in alcuni casi questi partitini si sono anche sfilati, come ad esempio in Puglia Italia Viva si è sfilata, cioè non è più della coalizione ma presenta un candidato alternativo, Scalfarotto, alternativo al governatore uscente Emiliano, e magari quei voti che Italia Viva raccoglierà lì, che poi è l'obiettivo sotto di Renzi, saranno decisivi proprio a far vincere il candidato fitto del centrodestra. Quindi è il PD gioca una partita in difficoltà, perché effettivamente è in difficoltà proprio oggettiva. Inoltre questa alleanza con i 5 Stelle, cercata, voluta, sponsorizzata anche dallo stesso Giuseppe Conte, non dimentichiamolo che Conte in particolare, non c'entra niente la Toscana, ma per la Puglia e per le Marche aveva, come dire, premuto sulle due forze politiche, cioè sul PD e sui 5 Stelle, perché arrivassero a un'intesa su un candidato comune. Così non è stato, c'è stata una forte resistenza da parte del Movimento 5 Stelle e quei voti potrebbero risultare determinanti. Poi sai, ci sono tante differenze secondo me rispetto per esempio a quanto è avvenuto con l'Emilia, perché tutti pensano all'Emilia, ma l'Emilia aveva intanto un governatore che a detta anche dei suoi avversari aveva governato bene. Pensate che c'è stato un voto disgiunto in Emilia molto alto, se non sbaglio, vado a memoria, attorno al 10%, cioè vuol dire che una parte degli elettori che hanno votato 5 Stelle, Forza Italia e addirittura Lega, hanno votato poi come governatore Bonaccini e non i loro candidati. Quindi questo significa qualcosa, significa che gli si riconosceva evidentemente di avere amministrato bene. Qui invece, ad esempio, in Toscana ci troviamo non con un governatore uscente, ma con un candidato che ha una lunga carriera politica, che ha fatto l'assessore, però comunque non è il governatore uscente. E in questa tornata elettorale post-Covid abbiamo visto che quasi tutti i governatori che sono, che appunto, che guidavano le regioni, si sono rafforzati quelli che hanno fatto bene. Non penso solo, per esempio, penso a Zaia, che era già forte, ma dopo il Covid, cioè, non si fa neanche campagna elettorale in Veneto, no? Ecco, sì, beh, oppure, ma anche Toti, per esempio, il governatore della Liguria. Ricordiamoci che Toti è un presidente di regione che ha un piccolo partito alle spalle, perché nella precedente tornata lui faceva parte di Forza Italia, ma è, come dire, da dissidenti, poi è uscito, quindi di fatto, eppure nonostante questo su di lui c'è forte fiducia da parte dell'elettorato ligure. Quindi Barbara dici il Covid ha rafforzato Zaia, ha rafforzato Toti e De Luca, poi c'è tutta la partita sul referendum e questa è tutta un'altra partita, tutta da vedere, e poi il silente Giuseppe Conte che sta volutamente ignorando la campagna elettorale. Seguiremo tutto questo proprio con i nostri speciali lunedì e martedì. Grazie a Barbara Fiammeri. Grazie per questo a voi, contributo. Buonasera. Grazie. E noi cambiamo argomento, perché chiaramente tutta la settimana che parliamo di scuola, ma oggi vogliamo fare un bilancio su questa scuola. Ogni giorno più incessante lo stillicidio di studenti positivi al Covid, di classi messe in quarantena, e poi ci sono dei problemi della scuola endemici come l'assenza, la carenza di professori, di docenti, che si vanno a sommare ai problemi creati dall'epidemia. Io do il benvenuto ad Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, benvenuto. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Presidente, possiamo tracciare un bilancio brevemente di come è andata questa prima settimana? Poteva andare peggio, poteva andare meglio, chiaramente, ma non è stata una debacle totale. No, assolutamente. Direi che tutto sommato non ci possiamo lamentare, e molti timori della vigilia tutto sommato si sono rivelati infondati. Certamente le criticità permangono, non ci sono dubbi. La consegna dei banchi procede a rilento, questo è inutile nasconderselo, perché siamo circa 200.000 banchi consegnati su 2 milioni e 4, quindi un po' meno del 10%. Abbiamo i problemi di organico che, devo dire, e va detto molto apertamente e onestamente, sono in linea con quelli degli altri anni. Quindi non è che si può attribuire a questa evenienza una particolare difficoltà. Indubbiamente la scuola italiana soffre di problemi che risalgono molto in là negli anni, e dobbiamo assolutamente riuscire a cogliere l'occasione costituita da questa emergenza e dal grande afflusso di risorse finanziarie che c'è indubbiamente per migliorarli. Non possiamo perdonarci se passerà tutto questo e noi non avremo fatto qualcosa di strutturale per migliorare la scuola. C'è poi la questione della misurazione della febbre. L'ordinanza del Piemonte che impone alle scuole di misurare la febbre è stata approvata dal TAR, una decisione che non è piaciuta ai sindacati. Che cosa accadrà? A questo punto anche il governatore della Campania De Luca vorrebbe che venisse misurata la febbre a scuola. Beh, preliminarmente va ricordato che il provvedimento del TAR è un provvedimento cautelare e monocratico, quindi insomma bisogna aspettare che si esprima il TAR nella sua collegialità. Io al proposito, insomma, mi ho già espresso, perché ritengo che se c'è un protocollo nazionale che detta certe regole, tutto sommato a quello bisogna sottostare. Ho letto la motivazione con cui il TAR ha accolto e sostanzialmente ha ritenuto che si tratta di una misura che non va a contrastare quelle nazionali, è una misura in più, e quindi, poiché non c'è alcun provvedimento nei confronti delle famiglie che non effettuano la misura, l'ha ritenuto valido. Ecco, questa è la motivazione tecnica. I dati sono in peggioramento sul Covid. Tuttavia abbiamo segnalazioni che ai dirigenti scolastici stanno arrivando diffide da parte dei gruppi di genitori che chiedono di non applicare la mascherina e il distanziamento in quanto contraria a queste norme. Stanno arrivando segnalazioni di questo tipo, è corretto? No, ne è arrivata qualcuna anche ad agosto, su di questo ci siamo già espressi, le ritengo assolutamente prive di significato, prive di contenuto, veramente indice di un'incoscienza che non si può dire. Quindi è chiaro che le misure vanno applicate, ma i dirigenti scolastici non ci pensano nemmeno a non applicarle, quindi su questo le famiglie stiano tranquille. Quello che dovremmo capire all'interno della nostra società è che vivere in una collettività come facciamo richiede un livello di maturazione e di responsabilità che purtroppo non è sempre esibito da tutti. Presidente, cosa ci può dire in riferimento al caso del liceo Socrate di Roma, dove c'è stata questa vicepreside che ha chiesto alle studentesse di non mettere la minigonna e queste studentesse hanno protestato presentandosi proprio a scuola in minigonna? Beh, innanzitutto che bisogna distinguere tra il rispetto per l'istituzione, che è sacrosanto, quindi è chiaro che non ci si può presentare a scuola così come si andrebbe in una discoteca, insomma, e serve un decoro, e questo decoro è dovuto sia nei confronti dell'istituzione pubblica che come rispetto nei confronti di se stessi. Certo, la motivazione io non la condivido, cioè non si può dire a delle ragazze non venite con la minigonna perché poi i professori vi guardano le gambe, insomma, a parte che questo è offensivo nei confronti dei colleghi uomini, da un lato, dall'altro si rischia di dare un'immagine della categoria che onestamente è dequalificante, quindi insomma non condivido, ripeto, questo tipo di motivazione. Con la convinzione, col ragionamento e facendo leva sul senso di responsabilità si ottengono risultati eccellenti a scuola, e di questo abbiamo avuto prova proprio perché sono i ragazzi sono quelli che stanno rispettando meglio le norme di sicurezza, quindi dovremmo capire queste cose e applicarle nella vita di tutti i giorni a scuola. Grazie Presidente, grazie per essere stato con noi. Noi cambiamo argomento subito dopo la pausa per il meteo, parliamo dell'Inghilterra, arrivano delle notizie anche dalla Francia, il ministro Le Maire è positivo al coronavirus, ma vediamo tra poco che cosa sta accadendo in Gran Bretagna. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. I titoli di questa giornata. Covid contagi in crescita, meno tamponi, 10 vittime, 4.000 casi in Gran Bretagna che va verso singole chiusure. Regionali referendum, chiusura della campagna elettorale, da mezzanotte il silenzio, si vota domenica e lunedì fino alle 15. Lavoro, oltre 1 milione di contratti a tempo in meno in un anno, colpito il turismo e i lavori stagionali. Tennis avanti a Roma, Berrettini e Djokovic, calcio domani al via la Serie A in Emilia-Romagna, stadi aperti a 1.000 persone. E allora il fantasma di un lockdown va a allungarsi, almeno come minaccia, dicevamo, sul Regno Unito, alle prese come molti altri paesi con un rimbalzo allarmante di contagi da coronavirus. La Francia ha superato i 13.000 nuovi casi, come avete sentito prima, è positivo anche il ministro dell'economia francese Le Maire, e anche a Madrid la municipalità è costretta a chiudere gran parte della città, mentre a livello mondiale i contagi hanno ormai superato quota 30 milioni. Ma andiamo proprio a Londra con Giorgia Scaturro, collaboratrice di Radio 24. Buonasera Giorgia. Buonasera. Dicevamo, in Gran Bretagna si è reso necessario, abbiamo sentito prima la voce di Johnson, lo strumento del rafforzamento parziale localizzato, di alcune restrizioni esteso a dei territori che si vanno ampliando di giorno in giorno. Tuttavia, guardando i casi, confrontando i 4.000 casi circa della Gran Bretagna con i 13.000 ad esempio casi della Francia, siamo un po' stupiti. Come mai questa accelerata in Gran Bretagna di queste misure che, lo ricordiamo, non sono un lockdown, perché le scuole, se non sbaglio, rimangono aperte, ma tu mi conforterai su questo. Ci sono delle restrizioni, ad esempio i pub chiudono alle 22, non si possono vedere più di 6 persone. In Italia abbiamo visto sui giornali titoli lockdown, ma non è proprio così, no Giorgia? Esatto, non si parla di lockdown perché i negozi, le scuole, gli uffici di fatto restano aperti. Quello che cambia è che ad esempio sui trasporti pubblici saranno limitati, si potrà andare soltanto per andare al lavoro, per andare a scuola e quindi ovviamente la socializzazione è limitata alle 10 di sera, chiuderanno i locali, non si potrà socializzare nelle case private o nei giardini, quindi diciamo è un primo passo verso il cosiddetto lockdown. Diciamo siamo arrivati a questo perché, come ha confermato Boris Johnson poco fa, pare che ci siamo, la seconda ondata di Covid di cui tanto si è parlato stia arrivando. Abbiamo qui casi che raddoppiano ogni 7 giorni e soprattutto abbiamo un problema, non sappiamo esattamente di che cosa stiamo parlando, perché non ci sono test, c'è questa grossa crisi per cui avremmo una capacità di circa 250.000 test al giorno, di fatto non riusciamo ad analizzarli, a processarli, quindi rimaniamo indietro e ovviamente questo provoca lo spargimento di casi, persone che non restano a casa perché sono convinti di non avere Covid e quindi non sappiamo bene di quanto aumenteranno. Per questo Johnson ha in questo momento sono circa 5 milioni i britannici che sono sotto queste misure restrittive, martedì verranno estese a 10 milioni di britannici anche con le zone del Midlands, l'Est Lancashire, che saranno nuovo sottoposte a misure restrittive. C'è anche un problema con la distribuzione dei tamponi. Abbiamo letto che il governo britannico sta chiedendo aiuto addirittura ad Amazon. Questo diciamo è una cosa che mi tocca dal vivo. Da lunedì sto cercando di rintracciare un test per mia figlia che purtroppo la prima settimana di scuola subito la febbre, quindi dobbiamo cercare Amazon, ma di fatto non è tanto il problema della distribuzione, perché intanto l'intero sistema che è partito male con questo sistema test and trace che doveva essere il migliore del mondo è partito male e si è di fatto incagliato, ingolfato, non c'è verso di raggiungere un centro di testing dove vengono fatti i tamponi, e anche una volta fatti non poi vengono processati in tempo, quindi non è tanto un problema di Amazon o chiunque distribuisca il test, ma è il fatto di avere i risultati del test e arrivare ad avere il risultato. Si parla di 24 ore, in realtà uno su quattro in 24 ore, ci possono volere dalle 48 alle 72, anche ai 5 giorni di tempo per avere un risultato, questo è anche un po' un problema. Giorgia, ma per curiosità, in Gran Bretagna si usano le mascherine al chiuso come viene fatto in Italia? Questa è una misura che è stata utilizzata in queste settimane in Gran Bretagna? No, è la risposta molto diretta. Ve lo dico, sabato scorso al centro di Soho, dove sono andata a dare un'occhiata prima che entrasse in vigore la nuova legge della regola del 6, Soho, il quartiere vibrante della vita notturna, nessuno aveva la mascherina. Parliamo di zona come Naviglia, Milano, se ragazzi, un po' di tutto, che vogliono viversi la loro vita notturna, nessuno aveva la mascherina. Diciamo anche che non è colpa soltanto di chi esce, quindi delle persone che non la mettono, ma anche dei messaggi confusi che sono stati dati dal governo. Ricordiamo che in Inghilterra soltanto alla metà di luglio la mascherina è diventata obbligatoria, fino ad allora c'erano le diatribe, le mettiamo o non le mettiamo, poi vista la malaparata si è deciso di renderle obbligatorie quantomeno nei negozi, ma entrare in un pub, entrare in un ristorante, nessuno ha la mascherina, per quanto siano d'obbligo. Non ci sono sistemi di controllo, la multa va dai 100 pound, quindi 120 euro per una persona che non la mette, a 3.000 sterline, quindi 3.200 euro per un'impresa, per un ristorante che non implementi queste misure. Di fatto qualcosa anche lì sta andando storto perché non ce ne sono molte in giro. E come potrà ora Johnson, il governo, far rispettare le nuove restrizioni se, come ci dici, non vengono rispettate, non sono state rispettate fino ad oggi? Uno strumento che lui ha usato è fare leva su sulle singole persone. Ad esempio, già da ieri è stato legittimato il denunciare il proprio vicino di casa, quindi chiamare la polizia se si sentono voci, feste, festini nei giardini accanto. Quindi si sta un po' buttando l'uno contro l'altro per cercare di far rispettare queste mascherine, misure. Che di fatto le misure ci sono. Si volta un po' la faccia. Dove sono un po' più applicate, dove ci sono più controlli, è sulla metropolitana qui a Londra, che però è ha una capacità di 50% del livello normale, e lì sì, le persone la mettono, ma per quello che mi è stato dato di vedere, difficilmente. Altrove non viene utilizzata. Grazie a Giorgia Scaturro da Londra. Noi ci fermiamo per il traffico, ci sentiamo subito dopo anche per sentire l'euroreportage sul cinema di Marta Cagnola. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E prima di lanciare l'euroreportage di Marta Cagnola, abbiamo un minuto con Giovanni Capuano, al quale do il benvenuto. Benvenuto Giovanni, buonasera. Ciao, bentrovati. Allora, domani riparte il campionato, ma quello che ci interessa di più è questa fuga in avanti del presidente della regione Emilia-Romagna con questo pubblico che finalmente potrà accedere agli stadi. Che cosa comporta per gli spettatori, per i fan del calcio, per i tifosi? Beh, succede questo. Allora, il via libera lo ha parzialmente dato il ministro Spadafora, che ha messo 1000 spettatori per gli spettacoli sportivi, gli eventi sportivi all'esterno, dando come punto di partenza il tennis, semifinale e finale dell'Internazionale d'Italia, domenica e lunedì sono in programma. Il presidente della Regione Emilia, Bonaccini, li ha anticipati. Parma-Napoli e Sassuolo-Cagliari domenica pomeriggio avranno il pubblico, 1000 spettatori. Ovviamente valgono le regole, quindi distanziamento interpersonale, mascherina e tutto ciò che serve per far sì che afflusso e deflusso vengano fatte con le maggiori garanzie di sicurezza, e in un certo senso questo deve cercare di riportare anche il calcio verso la normalità. In realtà succederà anche prima, perché domani ore 18 a San Siro si gioca l'ultima amichevole dell'Inter prima del debutto, che sarà settimana prossima in campionato, e saranno ammesse 1000 persone con le regole che ti ho appena raccontato, scelte fra tutti i club d'Italia, l'Inter Club d'Italia. Vedremo, perché poi in realtà, e chiudo, i club di Serie A non sono proprio contentissimi, perché hanno fatto dei piani per portare dentro più gente, e domani faranno una riunione per capire come rispondere al governo e alle regioni. Grazie Giovanni Capuano. Noi parliamo invece di cinema con questo Euroreportage. Il cinema riparte, ma sentiamo come. Euroreportage. Torna al Premio Lux. L'Europa riporta il pubblico al cinema, di Marta Cagnola. La crisi sanitaria ha colpito molto duramente l'industria cinematografica. Sale chiuse, poi parzialmente riaperte, pubblico da riconquistare, uscite dei film spesso rimandate anche di molti mesi. In questi frangenti l'Europa è tutt'altro che immobile. Non lo è, ad esempio, il premio Lux, il premio istituito dal Parlamento europeo 13 anni fa come riconoscimento a opere cinematografiche europee. Il premio Lux ha svelato il suo nuovo format alla 77esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Sabine Verheyen, presidente della Commissione Cultura e Istruzione del Parlamento. We are here today to launch a new project that can only be successful with the strong participation of the European people. Oggi siamo qui per lanciare un nuovo progetto che potrà avere successo solo con una forte partecipazione di tutti gli europei. Potrà avere successo grazie a un pubblico che avrà voglia di contenuti europei e che vorrà tornare al cinema. Il premio Lux si è sempre evoluto fin dalla sua creazione 13 anni fa. Ha contribuito a far incrociare le strade della nostra attività politica e quella degli autori europei, sottolineando il bisogno e l'importanza di mantenere fra loro un dialogo costante. Now we will continue this this work with strong and amazing partners and take the award a step further. Ora continueremo questo compito con partner forti ed eccezionali che faranno fare un passo in avanti al premio. Vogliamo che i cittadini europei siano parte del Lux e che possano votare i film insieme a noi. Abbiamo cambiato la tempistica del premio. Dopo la presentazione delle linee principali a Venezia, il prossimo passo sarà a Reykjavik, la cerimonia di premiazione degli European Film Awards. Là sveleremo quali sono i film finalisti. Partiranno poi le proiezioni dappertutto in Europa grazie all'importante collaborazione di Europa Cinemas con l'aiuto della Commissione Europea. Questa fase di Watch and Vote comprenderà eventi simultanei ad aprile. Finally, the winning film will be unveiled at the ceremony in the plenary of the European Parliament. Infine, il film vincitore verrà svelato in una cerimonia durante la plenaria del Parlamento Europeo. Il mio desiderio è quello che si possa trovare un nuovo senso di emozioni condivise, lacrime e risate nel buio pieno di luce della sala cinematografica. In the bright darkness of a cinema theater. Il premio, finora assegnato esclusivamente dal Parlamento, verrà dunque deciso anche dagli spettatori. Caratteristica fondamentale del premio Lux è che va a film che si distinguono per la capacità di trattare temi rilevanti nel dibattito sociopolitico e dunque di contribuire alla costruzione di una comune identità europea. I film finalisti saranno resi disponibili nelle 24 lingue ufficiali dell'Unione e il vincitore riceverà uno speciale adattamento per rendere l'opera fruibile ai non vedenti. Il cinema parla al pubblico più di tanti discorsi, ricorda la coordinatrice del Lux, Doris Pack. I just give you one example. We had one film. Vi faccio solo un esempio. Abbiamo avuto un film vincitore, Welcome. Ve lo ricordate quel bel film francese che raccontava la storia di un ragazzo che partiva dall'Iraq con il sogno di raggiungere la fidanzata a Londra, ma finiva a Calais? Questo film è uscito in un periodo di grandi discussioni sull'immigrazione. È stato proiettato al Parlamento francese e ha aperto gli occhi di molti miei colleghi politici. Sono film che forniscono molte chiavi di comprensione della realtà, soprattutto europea. Understanding, European understanding. I give you one example. I went always with the films in different schools. Io stessa ho visto molti film nelle scuole e sono convinta che dovremmo unire le forze e portare le opere del premio Lux ai ragazzi. Listen, we don't give any money. Il premio non è di carattere economico, ma il fatto che i film finalisti vengano sottotitolati in 24 lingue dà loro la possibilità di mostrarli dappertutto. Il fatto che il vincitore possa avere un adattamento per non vedenti è ancora più importante. È incredibile, è una delle grandi ricchezze del premio Lux. La presidente della Commissione Cultura e Istruzione del Parlamento, Sabine Verheyen, ha citato tra i partner del Lux Europa Cinemas. Nato nel 1992, grazie al sostegno finanziario del programma Media e del Centro Nazionale di Cinematografia Francese, è divenuto il primo network di sale cinematografiche che programmino principalmente opere europee. Il network fornisce un sostegno finanziario ai cinema che si impegnino a programmare un numero significativo di film europei non nazionali e a organizzare attività promozionali relative a film europei per un pubblico giovane. La rete comprende 977 cinema con 2.350 schermi distribuiti in 596 città in 42 paesi. Il direttore generale Claude-Éric Poirot. Nous sommes des relais, des liens. Siamo un tramite, siamo un collegamento con il pubblico. Siamo molto contenti di poter mostrare al pubblico, insieme alla European Film Academy, i film dei registi europei. Nelle nostre sale 6 proiezioni su 10 sono dedicate al cinema europeo e quando vediamo la lista dei film che hanno ottenuto il premio Lux ci rendiamo conto che sono dei film che possono arrivare con successo al pubblico. Fate un ottimo lavoro perché sottotitolare è il modo di avvicinare gli spettatori. Oggi penso che tutto quel lavoro che facciamo insieme vada in direzione del pubblico e lo faccia anche la scelta del Lux di questa nuova veste del premio che rilanciamo insieme oggi, coinvolgere ancora di più gli spettatori europei. On est très heureux aussi de ce qui se passe avec aussi le jeune public, parce que on parlait du public, mais je pense que Siamo molto contenti anche di quello che accade con gli spettatori più giovani. La posta in gioco dei prossimi anni è proprio il pubblico dei ragazzi, che devono imparare ad amare il cinema in sala, anzi, che già lo amano, sono ottimista, ma che sono anche attratti da tutte le altre possibilità a loro disposizione per guardare i film. Dobbiamo attrarli e portarli dal luogo in cui si trovano nelle nostre sale, insieme al cinema. Dans nos salles, ensemble au cinéma. Petrunia, ecco, ti ho scritto l'indirizzo per il colloquio di lavoro. Non dirgli la tua verità, digli che hai 24 o 25 anni. 32. Ne dimostri almeno 42. Il vincitore dell'edizione 2019 del premio Lux era stato Dio è donna e si chiama Petrunia di Teona Strugar-Mitevska, coproduzione di Macedonia del Nord, Belgio, Francia, Croazia, Slovenia. Il film era stato presentato in concorso nella selezione principale della Berlinale 2019 e in numerosi altri festival internazionali, tra cui il Torino Film Festival. Sarà invece, come sentivamo, alla premiazione degli European Film Awards, premi cinematografici assegnati annualmente dal 1988 dalla European Film Academy per celebrare l'eccellenza della produzione cinematografica europea, l'annuncio dei film finalisti di quest'anno. Anno in cui i festival sono più importanti che mai, come la Mostra di Venezia ha dimostrato, per promuovere i film e aiutare l'industria a riportare il pubblico in sala. Il presidente della European Film Academy, Mike Downey. I'm not like that grim reaper of... Non sono il triste mietitore di quella nuova generazione europea che dice «No, i miei film non sono cavalli da corsa». Nel nostro lavoro i premi sono di cruciale importanza. I premi sono quelli che ci spronano ad andare avanti nei giorni bui in cui non abbiamo spettatori. I premi ci incoraggiano a dare il nostro meglio, esprimere tutto il nostro potenziale e qualche volta prendere dei rischi. Ovviamente tutto questo insieme al loro ruolo di posizionamento promozionale e all'effetto sulla distribuzione che possono avere. E tra tutti i premi esistenti, nessuno dà al regista più gioia, più soddisfazione, un piacere più intenso di un premio tributato dal pubblico. More satisfaction than receiving an award from the public. Good films can animate like oxygen. I buoni film possono dare vita come l'ossigeno. E in questo periodo abbiamo bisogno di molto ossigeno. Non solo perché, come vedo anche davanti ai miei occhi in questo momento, respiriamo per gran parte del giorno dietro a una mascherina, ma anche e soprattutto perché in quanto comunità di europei abbiamo ancora molte montagne da scalare, ostacoli che dobbiamo superare e che dobbiamo superare insieme. Auguro quindi al Premio Lux un buon viaggio e buona fortuna a tutti noi in questo nuovo, importante sforzo. And good luck to all of us in this important new endeavor. Il viaggio del nuovo Premio Lux si concluderà con la premiazione il 28 aprile 2021 al Parlamento Europeo. Ancora la coordinatrice Tori Spack. La cerimonia si svolgerà al Parlamento Europeo. Siamo rimasti fedeli alla tradizione. Qualcuno ci ha chiesto perché non farla agli European Film Award. Noi abbiamo parlato con i registi, con le persone che hanno ricevuto il premio e ci hanno detto, per favore, conservate questa cerimonia perché ci porta nel cuore dell'Unione Europea, nel cuore del Parlamento, nel cuore della democrazia. In the middle of the Parliament, which is in the middle of democracy. Euro Reportage. In collaborazione con Euronet Plus. Grazie alla nostra Marta Cagnola, a tra poco con i titoli. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta? Non la lascia più. Vai su aruba.it.